Così parla il Signore. Osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza è prossima a venire e la mia giustizia è sul punto di rivelarsi. Beato l'uomo che agisce così, e il figlio dell'uomo che vi aderisce fermamente, che osserva il sabato senza profanarlo e che trattiene la sua mano dal compiere qualsiasi male. Non dica lo straniero che si è unito al Signore così: mi separerà certamente il Signore dal suo popolo. E non dica l'eunuco: ecco, io sono un albero secco. Poiché così parla il Signore. Agli eunuchi che osservano i miei sabati, prediligono quello che è di mio gusto e tengono fermamente alla mia alleanza, darò loro nella mia casa un nome e dentro le mie mura un monumento migliore dei figli e delle figlie. Darò loro un nome sempiterno che non sarà mai soppresso. Gli stranieri che aderirono al Signore per servirlo, per amare il nome del Signore e diventare suoi servi, tutti quelli che osservano il sabato evitandone la profanazione e tengono fermamente alla mia alleanza, io li condurrò sul mio santo monte e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti ed i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutti i popoli. Oracolo del Signore Dio che raccoglie i dispersi di Israele. Io raccoglierò ancora altri, oltre a quelli già radunati. Bestie tutte dei campi, venite per divorare, bestie tutte della foresta. I suoi guardiani sono tutti ciechi, non comprendono nulla. Tutti sono cani muti, incapaci di latrare. Sognano accovacciati, amando di sonnecchiare. Sono cani avidi, non conoscono la sazietà. Sono pastori che non capiscono nulla. Seguono tutti la loro via, ognuno il proprio profitto, senza eccezione. Venite, prenderò del vino. Inebriamoci di bevanda inebriante. Domani sarà come oggi, grande abbondanza, e più ancora.